ti sì, con il più dolce sorriso io ti baciai così, accarezzando il tuo viso. Tu scendevi pian piano da un magico sogno e finalmente restavi per sempre con me. Quando dicesti sì, tu mi donasti la vita, nacque per noi così un grande amore. Poi ripetemmo un dì nella chiesetta il sì, e da quel giorno ancora io benedico quel sì. Quando dicesti sì, tu mi donasti la vita, nacque per noi così un grande amore. Poi ripetemmo un dì nella chiesetta il sì, e da quel giorno ancora